Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, ci ritroviamo per la nostra rassegna stampa europea come il sabato scorso. Questa settimana iniziamo dall'Olanda, dal quotidiano De Volkskrant di Amsterdam. E torniamo sulla questione della corruzione. Ce ne eravamo già occupati, ci sono molte misure in tutta l'Unione Europea per tagliare la corruzione che non conosce frontiere. In questo caso però l'articolo del quotidiano olandese si occupa in particolare dei casi di corruzione nei paesi che hanno aderito all'Unione Europea ma appartengono all'ex blocco comunista. Il titolo è La corruzione alla pelle dura. Il sommario è: a quasi 10 anni dalla loro adesione all'Unione Europea, nei paesi dell'ex blocco comunista il malaffare è ancora diffuso. Bruxelles può fare ben poco. La soluzione deve venire dalla società, ma ci vorrà tempo. Del resto, aggiungo io, è chiaro che Bruxelles può fare ben poco anche nei singoli paesi. Pensate quanta corruzione c'è anche in Italia. Avrete sicuramente letto dell'ultimo caso, quello in Sicilia, dei politici che usavano i fondi per la formazione e per altre ideali destinazioni per fare vacanze e avere benefit personali. Comunque leggiamo l'inizio di questo articolo. Alla fine il premier ceco Petr Nekas si è dimesso. Lo ha fatto lunedì pomeriggio, il lunedì a cui ci si riferisce il quotidiano, il 17 giugno, 5 giorni dopo le rivelazioni sul più grande scandalo di corruzione nella storia recente del paese. Ovviamente Nekas avrebbe preferito che le cose andassero altrimenti. Negli ultimi giorni aveva fatto capire di non avere nulla da rimproverarsi, che sarebbe rimasto al suo posto. Conosciamo anche questo atteggiamento in Italia, cioè di negare finché non è più possibile. Il quotidiano olandese, che poi comunque l'articolo lo trovate online, credo che in parte sia anche tradotto in inglese, si occupa anche di più o meno analoghi casi in Croazia, in Romania e in Bulgaria. La cosa naturalmente interessante è che appunto in tutti questi paesi, e una volta non poteva succedere quando erano sotto la cappa di un appunto dell'ex blocco comunista, c'è la società civile che si sta ribellando, e alla fine così come dovremmo fare forse noi in Italia, alla fine appunto i politici cambieranno atteggiamento. A proposito di negoziati per l'adesione all'Unione Europea, chi sapete da anni si parla di questa adesione è la Turchia, e come abbiamo detto anche sabato scorso, ora che la situazione in Turchia è così confusa e soprattutto la posizione del governo Erdogan sembra sempre più dura, deludendo molte aspettative sia in Turchia che fuori dalla Turchia, il settimanale tedesco Der Spiegel, che ha un ricchissimo sito, quindi questo articolo era anche online, parla appunto di frenata sui negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Come vi ho già detto anche settimana scorsa, la Germania è particolarmente attenta da sempre alle questioni che riguardano la Turchia, perché è forse il paese in Europa che soprattutto negli anni 60 e 70 ha accolto più immigrati turchi. Alcuni hanno poi avuto la cittadinanza o ce l'hanno i loro figli, altri magari hanno ottenuto quella turca, ma comunque è una delle minoranze, neanche poi tanto minoranze, tra gli stranieri, perché si calcola che in Germania ci siano circa 4 milioni di turchi. Scrive Der Spiegel, il riavvicinamento della Turchia all'Unione Europea rischia di subire una netta battuta d'arresto, perché dopo la repressione brutale delle manifestazioni in Turchia, molti paesi dell'Unione vorrebbero interrompere i negoziati di adesione. Il 26 giugno, infatti, quindi tra pochissimi giorni, l'Unione avrebbe dovuto aprire un nuovo capitolo in questi negoziati, il primo in 3 anni, ma i diplomatici europei non sono riusciti a trovare un accordo per confermare l'appuntamento. In seguito alla repressione da parte della polizia, sapete, a Istanbul, ma anche ad Ankara, manifestazioni e repressione che hanno causato finora la morte di 4 persone e il ferimento di, scrive Der Spiegel, 7.500, Paesi Bassi e Germania si oppongono alla ripresa del negoziato. Persino Angela Merkel, la cancelliera della Germania, riporta Spiegel, è intervenuta sulla questione con un'intervista all'emittente RTL, ha criticato apertamente le azioni del primo ministro turco Tayyip Erdogan, ma sapete che Erdogan appunto ha risposto che lui non deve rendere conto all'Unione Europea, e che quando anche il Parlamento Europeo si è espresso contro questo atteggiamento del governo di così dura repressione, lui ha detto: io non riconosco il Parlamento Europeo come un'istituzione da cui prendere ordini o anche consigli. Cambiamo completamente argomento, cambiamo anche paese, passiamo al Financial Times, che appunto è il maggiore quotidiano europeo in lingua inglese, quotidiano economico in lingua inglese. Dico sempre con orgoglio che per diffusione in realtà il maggior quotidiano economico finanziario europeo è il Sole 24 Ore, ma invece Financial Times che si occupa di quella che chiama l'immobilismo europeo passata l'emergenza. L'immobilismo a cui fa riferimento Financial Times è quello sull'unione bancaria, sulla situazione dei negoziati per appunto arrivare a una sempre più fantomatica, direi, Unione Bancaria Europea. Scrive Financial Times, in vista del prossimo vertice dell'Unione Europea non riesce a staccare le banche dagli stati. Secondo il quotidiano economico, l'idea di un'Unione Bancaria Europea che troncherebbe i legami tra le banche in crisi e i governi nazionali si è scontrata con la realtà dei negoziati politici. Con l'approssimarsi dei vertici di Stato e di Governo della prossima settimana, quindi quella che viene, perché questo articolo è apparso giovedì 20 giugno, incentrato sulla politica economica, la linea ufficiale è che i mancati progressi dell'unione bancaria sono dovuti a questioni strategiche, ma il corrispondente di Financial Times a Bruxelles sottolinea che in privato altri funzionari riconoscono che il ritardo è dovuto soprattutto alla noncuranza provocata dalla quiete dei mercati finanziari e dall'avvicinarsi della campagna elettorale tedesca. In questo senso è probabile che non siano prese decisioni di peso prima del voto di settembre. Ecco, questa quiete dei mercati finanziari di cui parlava Financial Times è stata poi di fatto smentita il giorno dopo, perché sapete che i mercati non sono poi così quieti, sono molto sensibili a quello che succede negli Stati Uniti, quindi forse la calma dopo la tempesta non è ancora arrivata, quindi forse questo scuoterà un pochino quello che il Financial Times definisce immobilismo. Passiamo invece a un quotidiano portoghese che si chiama semplicemente I, che approfondisce il tema degli effetti della crisi. Il titolo è La crisi arricchisce i paesi ricchi. Ecco come i paesi più ricchi hanno approfittato della crisi dell'euro, mentre i poveri, come noi, scrive il quotidiano, cioè come il Portogallo, stanno sempre peggio. Questa è un'analisi che il giornale portoghese fa dopo che Eurostat, l'ufficio di statistica, di studi statistici europeo, ha pubblicato il 19 giugno, quindi mercoledì scorso, sul PIL pro capite di ciascun paese dell'Unione Europea nel 2012. Le stime preliminari presentate da Eurostat, comparate dal quotidiano di Lisbona con i dati del 2009, mostrano che i paesi più ricchi del nord e del centro dell'Eurozona sono diventati ancora più ricchi, mentre gli stati più poveri del sud si sono ulteriormente impoveriti. I portoghesi, per esempio, sono passati da un PIL pro capite dell'80% rispetto alla media UE nel 2009 al 75%. In Grecia il calo è stato ancora più drammatico, dal 94 al 75%, e i tedeschi nel frattempo hanno migliorato il loro potere d'acquisto, passando dal 115% della media al 121%, mentre gli austriaci sono passati addirittura dal 125% al 131%. Torna invece un quotidiano della Slovenia che si chiama Delo, e qui la questione di cui anche in questo caso ci siamo occupati spesso guardando in questa rassegna, è quella della disoccupazione giovanile. Il titolo è I giovani bussano alla porta, ma Bruxelles non ha una soluzione. La disoccupazione giovanile, che ad aprile ha raggiunto il 23,5%, scrive il quotidiano sloveno, è ormai la priorità principale per l'Europa, ma i progressi sono lenti e ostacolati dalla crisi economica mondiale. Il 19 giugno la Commissione europea ha chiesto la realizzazione tempestiva dei progetti per stimolare l'occupazione. Il budget UE per il periodo 2014-2020 per contrastare la disoccupazione giovanile ammonta a 6 miliardi di euro. E il 20 giugno proprio il governo sloveno già di suo ha approvato una legge per combattere la disoccupazione giovanile. In che cosa consiste? Perché aggiungo io, è facile naturalmente da proclamare la lotta alla disoccupazione, ma è molto più difficile da praticare, perché come si creano posti di lavoro in una situazione di crisi? Le aziende non assumono perché non c'è domanda e non devono produrre di più. Semplifico naturalmente. Se lo Stato con i vincoli dell'Unione Europea non può aumentare la spesa pubblica, non può appunto neanche svolgere lui il ruolo di datore di lavoro. Quindi questo sistema approvato dal governo sloveno prevede invece un sistema di sussidi per i datori di lavoro che assumono giovani di età inferiore ai 30 anni. Vi segnalo poi dal Guardian, lo potete guardare online perché il Guardian è il sito di notizie in inglese, è in assoluto più visitato al mondo, è fatto benissimo. L'articolo si intitola Come ridurre il deficit democratico, lo trovate appunto sul Guardian, e il tema, anche di questo ne abbiamo parlato tanto, è come aumentare i poteri del Parlamento europeo, perché secondo il Guardian non basterà a legittimare l'Unione Europea, dato che il vero potere è nelle mani dei parlamenti nazionali e bisogna coinvolgerli maggiormente nel processo decisionale. Faccio un'ultimissima segnalazione perché come al solito il tempo scorre velocissimo ed è tiranno, ed è la prima pagina dell'International Herald Tribune di venerdì, che ha una grandissima foto di Cecile Chienge, la nostra ministra per l'integrazione, e il titolo è L'Italia si confronta con la diversità. Siamo in effetti, questa è una cosa forse di cui, anzi senza forse, di cui andare fieri, siamo uno dei pochissimi paesi che ha un ministro per l'integrazione, tra l'altro appunto un ministro che è naturalizzata italiana, che possiede che ha due nazionalità. In realtà, scrive l'International Herald Tribune, potrebbe essere una soluzione, una lezione anche per altri paesi dove ci sono problemi di integrazione e immigrazione. Vi ringrazio per averci seguiti fin qui, vi auguro una buona domenica, vi do appuntamento a sabato prossimo. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.